Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Beh, non si può dire che l'ultima giornata di campionato del 2010 sia stata avara di emozioni. Ha perso la capolista innanzitutto, riaprendo di fatto un campionato che non è affatto chiuso, ma che cominciava a sembrare discretamente orientato. Le tre seguitrici hanno risolto la propria partita all'ultimo minuto, la Lazio, o addirittura a tempo scaduto Napoli e Juve, con la differenza non da poco che il Napoli l'ha risolto a proprio vantaggio con quel fantastico gol di Cavani. La Juve ha subito invece quello chirurgico di Pelissier. Si è rilanciata la Roma, ma indirettamente anche la stessa Inter, che nel frattempo ha vinto il suo mondiale di Abu Dhabi e che se riuscirà a battere Cesena, e non dovrebbe essere un'impresa, e Fiorentina fuori casa, magari già di più nei recuperi, sarebbe con la Roma a 7 punti dal Milan, dunque a 19 più 2, 21 giornate dalla fine, ampiamente in grado di tornare a competere. Qualche altro numero di quelli che Franco Piantanida mette insieme per il lunedì. Sono curiosi i numeri dell'anno solare, perché in 38 giornate, 17 di quest'anno e 21 della stagione scorsa, la squadra che ha fatto più punti è la Roma, 81, seguita dal Milan, 75, e dall'Inter, 66, ma con due partite in meno. 66 sono anche i punti del Palermo. 5 dei primi 6 cannonieri dell'anno solare 2010 sono italiani. Di Natale, nettamente in testa con 18 gol l'altro anno e 10 adesso che fa 28, Cavani 19, poi Boriello, Pazzini, Rivaio 17, Miccoli 16. La Roma ha vinto 4 delle ultime 5 partite a San Siro contro il Milan, sicché questo è diventato decisamente un campo amico. Ma il dato più... ce n'è ancora uno curioso, che è quello della Lazio. La Lazio è perfetta per l'ora di pranzo, per l'ora cosiddetta del brunch, perché ha giocato 3 partite alle 12.30, le ha vinte tutte e 3, segnando 6 gol e subendone 2. Nonostante Reja sia sempre più intemperante, perché in 32 partite sulla panchina della Lazio è arrivato alla 6ª espulsione, ma il dato numericamente più significativo è certamente quello riferito a quella che un tempo si chiamava la zona Cesarini e che di questo passo sta diventando la zona Mazzarri, perché ha vinto le ultime 4 partite tra campionato e Coppa per 1-0, ma ne ha vinte le ultime 2, una di Coppa e una di campionato, in pieno recupero. E in ogni caso, se le partite finissero un quarto d'ora prima, il Napoli avrebbe la bellezza, anzi la bruttezza, di 12 punti in meno. Negli ultimi minuti il Napoli ha convertito 4 pareggi in altrettante vittorie e una sconfitta in un pareggio. Quindi insomma la zona Mazzarri o la zona Napoli, che dir si voglia, ormai è tutto meno che un'opinione. In attesa dei vostri interventi, come sempre all'800 24 0024, alle valutazioni su quest'ultima giornata di campionato dell'anno solare 2010, possiamo provare a riascoltare qualche spunto emerso dal fine settimana. E allora comincerei da Mazzarri, perché mi sembra che il vero fatto nuovo, insomma, del Milan, la sconfitta del Milan ci poteva stare, anche se è arrivata in attesa, che la Lazio fosse competitiva ormai era acclarato, che il Napoli lo fosse fino a questo punto, sia pure dopo una partita molto ma molto sofferta, questa è una novità, tutto sommato è la vera novità del campionato. Sentiamo Mazzarri. C'è una grande disponibilità e tutti credono in quello che fanno, e con lo spirito giusto, che non mollano mai e sono preparati bene atleticamente, quindi anche per quello bisogna, sapete benissimo che i giocatori devono fare vita buona per allenarsi bene, quindi tutte queste cose messe insieme fanno sì che siamo una squadra che per batterci sarà difficile per tutti di partita in partita. Insomma, il nostro campionato non so se è il più bello o meno, però è il più difficile davvero. Ora Lecce ha giocato bene, una signora squadra che se ti vanno male gli episodi la perdi tranquillamente, quindi c'è grande equilibrio, le squadre che lavorano bene dal punto di vista atletico e sono molto organizzate con qualche valore possono sovvertire i pronostici ogni volta, quindi bene, mi sembra un bel campionato, sono contento che sia così. L'aveva praticamente persa la partita in casa contro il Lecce il Napoli, perché basta che Corvia o Corvia, che si voglia, la palla la spinga un tantino di più sull'uscita di De Santis e Grava non arriva a fare quel salvataggio miracoloso 5 centimetri prima della linea. E a quest'ora, visto che anche lì eravamo in recupero, a quest'ora staremmo facendo tutt'altri discorsi. Ma il Napoli ha la possibilità, alla ripresa subito del campionato in gennaio, di capire la sua definitiva dimensione. Adesso questa è una dimensione vera, oggettivamente. 33 punti non si fanno per caso, vale per Napoli come per Lazio, come per Juventus i 31, due sfumati all'ultimo istante. Ma dicevo, ha la possibilità di capire in maniera definitiva la sua dimensione, perché il ritorno in campo del Napoli col nuovo anno si presenta così: giovedì 6 gennaio ore 20:30 Inter-Napoli, domenica 9 gennaio Napoli-Juventus, e quindi credo che più prove del 9 di queste non ce ne possano essere. Gianni Morandi sarà il presidente onorario del Bologna, lo ha annunciato il futuro presidente Massimo Zanetti, la cui cordata ha ieri formalizzato l'acquisto della società. Morandi presidente onorario. Poi c'è una breve comunicazione di servizio di un ascoltatore fedele che si chiama Davide Sabattini, da Macerata Feltria, provincia di Pesaro Urbino, che segnala da più di un mese un notevole peggioramento nella sua zona del segnale di radio 24 sulla frequenza 106,7, con inserimenti di una radio croata, così segnala. Speriamo bene, e speriamo di ripulire questa frequenza, ma in genere voi sapete che già la segnalazione equivale a un inizio di soluzione. Abbiamo sentito uno dei due, come dire, paggetti, no? di classifica, cioè Mazzarri. Sentiamo l'altro, e cioè Reia. Partita tutta particolare, perché poteva vincere l'Udinese, potevamo vincere noi, abbiamo avuto un sacco di opportunità, una partita aperta, stranissima per certi punti di vista. Noi abbiamo fallito un 3-4 occasioni nel primo tempo, loro la stessa cosa, e poi alla fine niente, c'è stato questo premio ai ragazzi che anche oggi hanno profuso un sacco di energie, abbiamo attaccato anche a testa bassa qualche volta, allargando poco il gioco, però poi abbiamo ottenuto questo risultato, penso in una maniera meritata. Poi Reia, non è stato questo l'unico commento alla partita. Reia era decisamente teso per le contestazioni del pubblico e per qualche atteggiamento di panchina non proprio elegante, e quindi si è sfogato, perché gli è parso di cogliere nell'ambiente, soprattutto nell'ambiente esterno, ma non solo, ripeto, qualche segnale di vi siete montati la testa. E allora sentiamo che cosa non ha mandato a dire. La gente bisogna che capisca che qua non c'è nessuno, qua non ci sono dei titolari, io posso sostituire chiunque. Io ho detto una rosa vastissima, ci sono dei valori, ci sono caratteristiche diverse, dalle volte uno prova a trovare delle soluzioni. Queste sono situazioni che vanno condannate, qua deve intervenire la società, io faccio il mio lavoro, io faccio i cambi, la gente bisogna che si metta in testa che qualche cambio bisogna farlo. Qua di fenomeni non ce ne sono, sono tutti giocatori importanti, di buone qualità, finché loro avranno il concetto dell'utilità, tutti quanti, i 25, se cominciano ad avere un po' di insofferenza è chiaro che crolla tutto, è già crollato un anno fa, non vorrei che si ripetessero queste situazioni. Questo è un monito su cui i laziali farebbero effettivamente bene a riflettere. Bello questo messaggio di Andrea da Pavullo nel Frignano, dice: vi ascolto sempre mentre mi alleno correndo nel bosco, sentire voi e vedere la meraviglia della natura che mi circonda è davvero un binomio eccezionale. Grazie del complimento, anche se la natura vince sempre. Il messaggio firmato appunto da Andrea da Pavullo è il suo stupore, diciamo così, perché poi è leggermente più come dire, va un tantinello sfumato il concetto, è il suo stupore per vedere Materazzi eletto a maître à penser, diciamo, della società e del gruppo Inter. È anche il mio, caro Andrea, da qualche anno a questa parte, se è per quello. Il primo intervallo, le strade. Tra poco inizieranno i vostri interventi in diretta. Volevo sentire ancora qualche commento, che poi intervalleremo anche più avanti, ma volevo sentire, visto che dopo Napoli e Lazio c'è la Juventus, volevo sentire il commento del direttore generale Marotta a questo pareggio juventino, o a questa vittoria sfumata quando ormai sembrava davvero in banca. Una giornata direi amara per quanto riguarda il risultato, ma molto positiva per quanto riguarda la prestazione. Il bello del calcio è proprio questo, perché al 91esimo noi giocavamo e i titoli forse erano Juventus seconda, al 94esimo la Juventus è diventata praticamente quarta e il Napoli ha fatto gol e è diventato secondo. Quindi sono le cose un po' atipiche di questo mondo imprevedibile. Devo dire invece che la Juventus ha dimostrato, nonostante sia rimasta per 40 minuti in 10, nonostante abbia presentato due diciottenni dall'inizio, ha dimostrato di essere all'altezza di questo ruolo, una grande compattezza, una grande motivazione e quindi praticamente direi va sottolineata la prestazione che è molto più importante del risultato conseguito. E questa è l'analisi di Marotta. Tiziano ha chiamato da Foggia, buongiorno. Casualmente Juventino. Casualmente. Dica. Niente, io non posso che prendere per buone le parole di Marotta, perché in effetti la Juventus sta mostrando un buon gioco. Certo, dopo l'annata, quella passata in cui la Juventus forse ha mostrato il peggio di sé, quest'anno possiamo dire almeno di avere un gioco, come dicevo prima, e comunque avere dei giocatori che stanno dando l'anima. E la cosa che mi dispiace è che purtroppo la fortuna che abbiamo potuto avere con la Lazio, nel senso di segnare all'ultimo, l'abbiamo subito pagata a Verona. Anche se io credo che sia la partita con la Lazio che quella col Chievo la Juve meritasse di vincere. Vedo che purtroppo questa fortuna non è nostra, ma è forse di altre squadre, vedi Napoli, insomma, che nelle ultime Tiziano, appena finito di dire che era stata fortunata contro la Lazio, non è che si può. Vabbè, però fortunata, però per computo di azioni la Juve meritava. Di occasioni, sì. Beh, però ieri certamente la Juventus ha avuto le più clamorose, ha preso due pali e cose, ma non è che il Chievo ne ha avute così poche. Se il Chievo infila rigore e va sull'1-0, per esempio, tanto per dirne una, già la partita certamente si complica. E poi c'è sempre il fato, no, in agguato, perché la settimana prima Krasic, l'abbiamo detto, almeno io l'ho detto sicuro, sbaglia un cross o sbaglia il tiro, comunque colpisce male il pallone davanti quando ormai ha fatto il più, e cioè quando li ha seminati tutti ed è arrivato, sia pure la posizione defilata davanti a Muslera, e Muslera si caccia dentro il pallone. Ieri fa una cosa ancora più difficile, perché a velocità più alta e più prolungata, partendo da più lontano, li semina davvero tutti, e poi anziché trovare una deviazione fortunata per lui, trova, scheggia la traversa quando insomma quel pallone sembrava davvero dentro, o comunque quando volendo c'era Iaquinta completamente solo davanti alla porta spalancata. Sono momenti che vanno e vengono, evidentemente. Aldo è in linea da Siena, buongiorno. Buongiorno dottor Ganzini, è un piacere parlare con lei. La ringrazio. Allora, io avevo due domande. Premetto che sono milanista e quindi sto godendo abbastanza quest'anno, però mi chiedo, voglio dire, una rosa come il Milan, è possibile che Allegri, quando il Milan sta perdendo o pareggiando, che avrebbe bisogno di una scossa, fai cambi gli ultimi 3-4-5 minuti? Io non mi riferisco solo a Ronaldinho, ma anche agli altri giocatori. Entrano con la Juve, entrò Seedorf agli ultimi 4 minuti, con Cesena uguale, entrò. Cioè, lui fa cambi gli ultimi 3-4 minuti. Da questa maniera, che se c'è da cambiare un po' l'andamento da fare per cercare di raddrizzarla, un po' pretende che i giocatori facciano miracoli in 2 minuti. E poi la seconda era una constatazione che ora capirà molto probabilmente, perché la maggior parte dei tifosi del Milan sono contro Seedorf. Sabato, non so se ha visto la partita, era indifendibile, ecco, l'ascolto per radio. Difatti non è un momento di grande condizione, di grande forma, e la conferma è che l'aveva escluso dalla formazione di partenza Allegri, poi ce n'è stato bisogno quando si è fatto male Pirlo. Comunque no, ma lei conferma questa linea di tendenza, cioè se Sero sbaglia una partita arrivano gli interventi di quel segno. Quando gli capita, e certo gli capita meno che in passato, ma insomma quando gli capita, non poi così di rado ancora, invece la partita di azzeccarla o addirittura, se non di deciderla, insomma, di essere abbastanza determinante, di interventi non se ne sento. Mario, Milano, buongiorno. Garantini, buongiorno. Dica. Mi interesserebbe il suo parere, anche se non sempre non sono d'accordo, però è molto autorevole e mi fa piacere. Ieri, nel pourparler, nel pourpourri del pomeriggio calcistico, a un grande ex campione di calcio, oggi commentatore, gli hanno chiesto: il campionato è ancora lungo, tu come la vedi? Lui ha risposto: con tutto il rispetto e non voglio offendere nessuno, io la squadra che temo di più è l'Inter. Mi trovo d'accordo, volevo sapere il suo onorato parere, grazie. Ma non è onorato, è un parere qualunque, esattamente, che vale quello degli altri. È un'opinione rispettabile, è più una suggestione al momento che un'opinione, ma io l'ho detto anche in apertura: se l'Inter batte il Cesena, che è facile, o comunque che non è impossibile, se l'Inter vince a Firenze, che è già un po' più dura, e cioè fa il pieno nei due recuperi, l'Inter è a 29 e a 7 punti dal Milan con 21 partite da giocare, è ampiamente in corsa. Bisogna vedere che Inter sarà. Cioè, se sarà un Inter con un altro allenatore, tanto per cominciare, sarà un Inter anche con qualche altro giocatore o meno. E cioè, cosa succede adesso? Moratti alle prese da una parte con l'esigenza effettiva di un minimo di rafforzamento, se non altro numerico, alla rosa. Come la mette col fair play finanziario? Compra, non compra? Compra per far dispetto a Benitez, compra insomma, chi sarà l'allenatore, questa squadra come reagirà alla vittoria mondiale? Era questo il, come dire, il traguardo dei giocatori per quest'anno, e quindi c'è da pensare, questa è una corrente di pensiero non poi così poco accreditabile, e quindi adesso, come dire, il loro obiettivo principale l'hanno raggiunto e vediamo cosa viene, oppure invece da lì quello è un trampolino di lancio, un punto di partenza. Le ipotesi sono tutte valide, i punti interrogativi sono tanti, ma certamente chi oggi è a 8, 9, forse anche 10 punti dalla vetta ha tutte le possibilità di vincere il campionato. Ripeto che la Roma lo scorso anno partì da meno 14, è vero che va davanti una squadra sola competitiva, e quest'anno sono di più, però partì da più giù, da parecchio più giù di dove è l'Inter adesso, contando per l'appunto i recuperi. Tonino ha chiamato dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Senta, io volevo dire, io ho sempre avuto molto molto rispetto per il signor Moratti, perché sono interista, però al di là del play finanziario, tutto quello che vuole lei, però secondo me si è comportato e si sta comportando molto male con il signor Benitez, perché io avrei voluto vedere qualsiasi allenatore decimata come è sempre stata fino ad oggi l'Inter, cosa avrebbe fatto. Ecco, volevo solo sapere questo, e poi attraverso la radio volevo fare gli auguri al nostro Giuseppe, il nostro pastore, gli auguri di Buon Natale, perché è il nostro amicone di tutti, il nostro amicone Frusinate. Tonino, grazie. Io penso che Benitez comunque in forma molto più elegante, però il Benitez di Tokyo mi ha ricordato il Lippi del 2000 a Reggio Calabria, comunque, nel senso che qualunque sia il risultato, qualunque sia il momento, qualunque siano le ragioni che hai, e certamente Benitez non ne aveva poche, anzi io sono d'accordo con lei che ne aveva una buona sfilza, però insomma, se quelle sono le parole, pesano, e quelle di Benitez erano pietre, le parole dell'altro giorno, se vuole poi le risentiamo, erano letteralmente pietre, e credo che sia una sorta di autoesonero. Lippi scelse una frase molto poco elegante, in sintonia col personaggio, per propiziare l'esonero di Reggio Calabria, in maniera da non rimetterci, no? Per carità, e invece mi pare che Benitez ne abbia scelto un'altra, se vogliamo più elegante, ma ancora più dura. E quindi credo che a questo punto, credo che da un secondo dopo che quelle parole Benitez le ha pronunciate, Benitez fosse l'ex allenatore dell'Inter. Ruggero da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io ho parlato ancora con lei, sono un ex allenatore di squadra dilettanti. Sì. E mi aggancio a questa ultima telefonata che ha ricevuto. Io sono un interista dello zoccolo duro, ancora dei tempi del padre di Moratti, però vorrei richiamare il giovane, per modo di dire, Moratti Massimo, a ripensarci sul cambio di questo allenatore, perché questo è un uomo che di calcio ne sa. Pertanto non lo paragoni a Lippi, che è solo un arrogante, secondo me, uno che non ha saputo disimpegnarsi nei momenti difficili, voleva uscire di forza da queste situazioni. Beh. Mentre il Benitez è una persona, è un signore, oltre che un competente di calcio. E io suggerirei di parlare a questo allenatore, perché secondo me nel mercato non mi sento i nomi che circolano, non ne vedo uno che sia superiore a questo signore, non vedo da interista una possibilità. Questo ha conosciuto ormai i giocatori, ha parlato, lasci stare Materazzi, che lui, essendo a fine carriera, pochi sanno chiudere in un modo signorile la carriera con qualche dichiarazione, volevano giocare, non volevano giocare. Sì. Io la mia, che volevo sapere da lei, e vengo alla domanda. Ecco, questa, bravo, perché il tempo passa, volendo. Considero una persona che lei sa di calcio. Perciò dico, è conveniente in questo momento per l'Inter, che secondo me è in gioco su tutto, cambiare l'allenatore? Ruggero, non è conveniente o non conveniente, è ineluttabile. Cioè, mi sembra che non ci sia un'altra soluzione. Non vedo quale società, nemmeno una società, diciamo, perfettibile come l'Inter, da un punto di vista strettamente societario e di gestione di rapporti ed equilibri, non vedo quale società possa tollerare uno sfogo come quello che Benitez ha avuto l'altro giorno, torto o ragione che avesse, anche con una prevalenza di ragione. Sentiamo come va sui mercati, che tutto sommato credo pesi un tantinello di più. Torniamo in onda con qualche messaggio, con i vostri interventi, con qualche voce ancora da ascoltare. Roberto Cosentini da Milano scrive: mi domando se il buon Piantanida ha statistiche sui duelli, dei duelli sull'efficacia di Ibrahimovic, il giocoliere solo davanti al portiere. Curiosità che diventa ancora più attuale se si considera che il 2010, come lei ha ricordato nei giorni scorsi, è il centenario di Meazza, famoso anche per il suo invito ai portieri, e cioè, traduco, no, c'è poco da tradurre, insomma, mi sembra molto chiaro, però il concetto è: quante volte Ibrahimovic davanti al portiere rischia di incartarsi, come indubbiamente è successo l'altra sera. Io credo, Roberto, che non sia una statistica possibile, perché entriamo nel campo del soggettivo, non è facile scorporare tutte le occasioni in una partita, però è vero che la potenza è una cifra vincente di Ibrahimovic più di quanto non sia la freddezza in quel genere di situazione. Daniele ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buonasera Garanzini, solo per un piccolo sfogo riguardo Seedorf. Io sono un milanista di vecchia data, e secondo me discutere e criticare un giocatore come Seedorf è da folli. Solo questo, l'ascolto sempre con piacere, grazie. No, da folli era un tempo, secondo me, oggi è da ipercritici, o comunque è da, forse volendo, anche da ingrati, ma insomma non ha molta importanza. Il Seedorf che è subentrato nella partita con la Roma certamente non era un Seedorf all'altezza. Vorrei sapere però chi tra i 22, anzi non so quanti cambi hanno fatto, ma insomma tra i 26 e i 28 in campo l'altra sera è stato davvero fino in fondo alla sua altezza, e parlo sia di Milan che di Roma, nel senso che ho visto giocare una ottima partita a De Rossi, ma ho visto De Rossi giocare anche meglio. In ogni caso sarà stata la suggestione, cioè arrivavo dalla diretta di Espanyol Barcellona e sinceramente, ma anche non solo per il valore stratosferico di oggi del Barça, ma anche per la qualità dell'Espanyol dei primi 20-30 minuti prima di essere lentamente annientato dal Barcellona, le dirò che è stato inevitabile fare questo parallelo, no? Barcellona e Spagnolo in Spagna voleva dire, oltre che un derby, voleva dire la prima contro la quarta del campionato. Milan-Roma-San Siro voleva dire la prima contro la quinta. Se a lei fosse capitato, come a me, di passare direttamente dal derby spagnolo al secondo tempo di Milan-Roma, beh, le garantisco che sarebbe stato abbastanza imbarazzante sul piano qualitativo. Francesco da Palermo, buongiorno. Dottore Garantino, Garanzini, buongiorno. Innanzitutto auguri a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. La mia domanda è questa: volevo fare i complimenti a noi per il cantato che sto facendo, ma le pensi che con gli Aronica e i Santa Croce si possono vincere gli scudetti? E poi di non paragonare Benitez a Lippi, che non è da lei. No, auguri a tutti. Francesco, io non ho paragonato Benitez a Lippi, ho detto che è l'ennesima volta in cui un cioè gli addii guastafeste negli ultimi anni sono stati numerosi, sono almeno tre, no? Nel senso che, vabbè, quello di Mancini guastò fino a un certo punto, ma in ogni caso Mancini se ne andò nel 2008 guastando entro certi limiti la festa per uno scudetto vinto. Sei mesi fa sappiamo bene che l'elegante addio di Mourinho guastò comunque la festa all'Inter per la Coppa dei Campioni, adesso questo di Benitez guasta un'altra festa per questo titolo mondiale. La curiosità è che con modalità diverse questo di Benitez, cioè di farsi mettere, non di mettersi, di mettersi fuori gioco in maniera da farsi mettere fuori gioco, ricorda insolitamente quello di Lippi che nel 2000 scelse una formula più o meno dello stesso genere. Ecco la curiosità, non è un paragone tra i due come allenatore, l'ha fatto prima un ascoltatore, ma quello che ha detto sul valore rispettivo dei due non l'ha detto lui, non è certamente una cosa che io condivida. Mario è in linea da Bergamo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Io volevo fare una considerazione, me l'ha mandata lei con la storia, dico solo che essendo tifoso dell'Inter dico che sbagliare è umano, perseverare è diabolico, perché tutte le volte, se dopo 45 anni rivinciamo la Coppa d'Europa, la Coppa del Mondo, e ce la roviniamo così, siamo proprio dei masochisti. Uno. L'altra invece è una domanda. Io già il giorno dopo la vittoria della Coppa dei Campioni avevo chiamato lei e avevo detto che mi piaceva Leonardo perché era un gentiluomo. Visto che ormai per Benitez, che è un gentiluomo, non ci fa niente, le ripeto se per lei va bene Leonardo. E non so se servirà un sergente di ferro a far tacere questi bambini, perché io li chiamo bambini perché non ci si comporta così con un allenatore. Grazie, auguri, l'ascolto per radio. Bisogna sempre anche controllare come si comporta il preside, però, oltre ai bambini, il preside e diciamo il collegio dei professori. Perché insomma, quando disavventure di questo genere sono così reiterate, pensare che sempre dipenda soltanto dagli alunni e non dagli insegnanti, ripeto, o dalla presidenza, mi sembra un po' riduttivo. Il concetto di masochismo è autentico. Lei dice chi può essere la persona giusta, non ho la minima idea. Non so, se l'Inter si fa prendere dalla suggestione, allora io posso ricordare che esattamente 40 anni fa, non proprio di questi giorni, un po' prima, ma non poi tanto prima, e in ogni caso allora i punti per vittoria erano 2 e non 3, l'Inter decise di affidarsi al Baresi, al Beppe Baresi di allora, che si chiamava Gianni Invernizzi, e che con una rimonta strepitosa rivinse il campionato, appunto 70-71, con una grande rimonta ai danni del Milan. La differenza è non tanto su Baresi e Vernizzi, questa non sono in grado di valutarla. La differenza è questa, che quella fu una mossa come dire di responsabilizzazione dei giocatori. La differenza è che il nucleo storico di quei giocatori dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale si chiamava Corso, si chiamava Boninsegna, si chiamava Mazzola, si chiamava Facchetti. Oggi che, ripeto, il maître à penser del gruppo è Materazzi, io qualche dubbio su un'autogestione in più l'avrei, ecco. Nello ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Premetto, sono un tifoso del Milan e la mia domanda è velocissima. Ma secondo lei il ventilato arrivo di Cassano non è che abbia già destabilizzato il Milan? Mi chiedo, una società che ha la storia del Milan non si rende conto che forse abbiamo bisogno di altre cose, tipo un buon terzino, un buon centrocampista giovane, un centravanti laboriello, piuttosto che l'ennesimo fantasista di talento ma di scarsa affidabilità? Buon Natale a lei e a tutti i suoi ascoltatori. La ringrazio Nello, tenga conto però che c'è già un salto di qualità, perché è vero che Cassano è matto come un cavallo, però è ancora un giocatore, e che giocatore, se decidesse di comportarsi, cosa che non ritengo più possibile a lungo termine, ma se decidesse di comportarsi come si deve, è un fior di giocatore. Tenga conto che nelle due ultime stagioni, in quest'epoca, arrivava Beckham, con tutto rispetto per il Beckham persona, per il Beckham professionista, per il Beckham che si impegna, però stiamo parlando di un calciatore in carriera, Cassano, oppure di un ex da un mese e mezzo, da quando gli è successa questa disavventura, a un ex calciatore con... ha una vecchia gloria con tutta evidenza, quindi direi che ci può essere anche di peggio, no? in queste cose. Una statistica che ha appena lanciato l'Ansa, i numeri piacciono molto, soprattutto quando le giornate di campionato sono tante e più si va avanti e più i numeri sono significativi, più si ingrossano e più sono significativi i numeri. La battezza Serie A last minute, nel senso che sono già 25 i gol segnati nei minuti di recupero, sono tanti, perché in 17 giornate giocate vuol dire che grosso modo una partita e mezza, una partita e mezza a giornata, sì, direi che la statistica ci sta, viene decisa nei minuti di recupero. È una percentuale abbastanza altina. Carlos Milano, buongiorno. Buongiorno, sono un tifoso juventino. Sì. No, volevo dire che ci sta a perdere con le al 90esimo. La settimana scorsa abbiamo perso, abbiamo vinto, scusi, contro la Lazio. Abbiamo goduto un po', stavolta abbiamo pareggiato e ci sta. E un'altra cosa che volevo dire, no? Un mio pensiero. Se io fossi un dirigente juventino, no? Visto che stanno per licenziare a Benitez, farei quello che hanno fatto Ranieri, cioè assumerei subito dopo, perché non ci dimentichiamo che questo è un uomo che nel calcio ne capisce, no? ne ha fatto, se non sbaglio, 3 finali dei Champions League, non dimentichiamo questo. Volevo un suo pensiero, grazie. Sì, qui su questo, no, mi intrigava di più la prima parte della domanda, perché nella Juventus di ieri mi ha colpito, mentre nelle ultime giornate mi aveva sempre colpito in maniera positiva, ieri meno. È vero che mancavano degli elementi importanti e soprattutto l'ago tattico della bilancia, che rimane Felipe Melo, però secondo me anche in 10 contro 11 una squadra come la Juventus non può farsi schiacciare a quella maniera, cioè non può perdere le distanze, arroccarsi come si è arroccata. Cioè mi pare che se De Neri ha avuto un merito in quella fase di inferiorità numerica è stata quella di accentrare Krasic e comunque di... poi Krasic fa quello che vuole, intendiamoci, ci va più o meno da solo negli spazi che si sceglie, ma insomma quella era l'arma vincente, lo si è dimostrato. E lo ha dimostrato quella volata, poi casualmente finita soltanto sulla traversa. Però una squadra come la Juventus, una squadra veramente organizzata, deve sapere gestire in maniera più felice un'inferiorità numerica, che è una situazione tattica che ti può discretamente capitare. Poi si può disquisire a lungo sul fatto se l'inferiorità numerica fosse o meno meritata, e sinceramente l'espulsione di Giadonato mi è sembrata un po' frettolosa, però dire che la Juve sia andata male da quel punto di vista no, perché in compenso, secondo quanto scrive anche Paolo Casarin, che è uno che se ne intende sul Corriere della Sera di stamane, l'espulsione vera, il fallo dell'ultimo uomo, era quella di Chiellini nel primo tempo, e allora l'inferiorità numerica sarebbe durata anche di più. Davide, riusciamo ancora a sentire Davide dalla provincia di Latina, buongiorno. Sì, salve dottor Dice. Garanzini, faccio complimenti per la trasmissione. Lei accompagna i miei pomeriggi in auto nel mio lavoro, però mi rendo conto che è una radio che purtroppo parla molto delle squadre del nord e mai del sud, poco del sud, nel senso che è un campionato questo dove il Napoli, la Lazio, Palermo stanno facendo ottime gare. Abbiamo un Napoli e una Lazio al secondo, però non si fa altro che parlare del Milan, dell'Inter, di Seedorf, cioè parliamo anche un po' di questo Napoli, di questa Lazio, non so, parliamo anche un po' di Sud, altrimenti, cioè, voglio dire, mi sembra proprio una radio che sta nei confini lombardi, voglio dire. E noi invece, voglio dire, qui siamo, io sto al sud, io sono di Napoli, vivo a Gaeta, stanno ascoltando anche a Catania, all'Italia. Davide, le prime tre voci che ho mandato in onda oggi sono state quelle di Mazzarri, di Rea e poi ancora di Rea, proprio per cercare di orientare il, l'argomento, proprio per cercare di così illustrare agli ascoltatori che la novità di quest'anno è che a quasi metà campionato il centro-sud è ben rappresentato al vertice della classifica. Se poi gli ascoltatori in un appuntamento libero, perché come lei sa, se è un ascoltatore fedele, questo è un appuntamento libero in cui chi chiama, i primi che chiamano vanno in onda, questo sinceramente questa responsabilità non me la prendo. Sentiamo come va piuttosto su strade e autostrade. Prima di dare la parola a Nicola Filippone di ascoltare cosa ci ha preparato per oggi, io insomma accontenterei l'ascoltatore di Latina e riproporrei il commento di Giampaolo, perché l'unica vittoria da metà classifica, anche abbondante in giù, significativa di ieri, è stata quella del Catania sul Brescia, e la marcia del Catania, che l'ha portato in una zona di classifica più sicura nelle ultime giornate, è davvero significativa. La vittoria è stata pesante perché era una partita delicata, una partita difficile. Sono molto contento del risultato, ma sono molto contento di chi si è fatto trovare pronti. Molte volte gli assenti nelle piccole squadre si contano poco, non vengono menzionati, e noi da un paio di settimane a questa parte abbiamo perso giocatori importanti. La vittoria è ancora di più soddisfacente perché è ottenuta con un gruppo di ragazzi che ha saputo mettersi a servizio della squadra, non ha fatto rimpiangere chi era assente da un po' di tempo a questa parte. Quindi la forza del gruppo ha meritato sicuramente questa vittoria. Prima della rubrica di Nicola Filippone, sinceramente volevo condividere con voi un momento di divertimento, perlomeno mio. Ho trovato irresistibile ieri il titolo della Gazzetta dello Sport domenicale, che sotto, per carità, sotto un più che legittima, una più che legittima copertina con la scritta Mondo Inter, con un titolone Mondo Inter, la foto di Zanetti con la coppa, tutte le coppe vinse quest'anno, e fin qui tutto bene. Pandev, il sommario recitava: Pandev, uno strepitoso Eto'o, infine Biabiani, i nerazzurri annientano il Mazembe ed entrano nella leggenda. Ora, va bene la leggenda, secondo me bastava la storia, ma insomma la leggenda ci può stare, ma quell'annientano il Mazembe mi ha veramente ricordato i titoli di Cuore o del Male, insomma, dei settimanali satirici, per la loro comicità, di qualche tempo fa. Nicola Filippone è alle prese con un anniversario del 20 dicembre. Sembra ieri. 20 dicembre 1925. A Borgo Abugiano, provincia di Pistoia, nasce Benito Lorenzi, futuro attaccante dell'Inter. In maglia nerazzurra, Lorenzi disputerà dal 47 al 58 314 partite, segnando 143 reti. Attaccante potente e tecnico al tempo stesso, Lorenzi aveva astuzia e una grinta fuori dal comune, doti che rendevano perfettamente appropriato il soprannome Veleno. Tra i tanti episodi che lo hanno avuto protagonista, c'è un celebre Inter-Milan datato 6 ottobre 1957. L'arbitro fischia un rigore contro i nerazzurri, che conducono per 1-0. Veleno sistema un pezzo di limone sotto il dischetto, inducendo così all'errore l'ala sinistra rossonera Cucchiaroni, un'iniziativa che consente all'Inter di vincere la partita. Lorenzi è morto il 3 marzo 2007, al termine di una lunga malattia. Beh, quella del limone sul dischetto del calcio di rigore non è più... è una delle gag più antiche, più gettonate, insomma, della storia dei nostri campionati. Roberto Cosentini non sa i danni che ha fatto, perché ha scatenato la verve statistica di Franco Piantanida, che ha dedicato l'ultima mezz'ora a ricostruire quante occasioni da gol Ibrahimovic ha effettivamente avuto quest'anno. Poi vanno prese con beneficio l'inventario, perché è ovvio che già si può discutere sul concetto di occasione da gol, a maggior ragione facendo una ricostruzione fatalmente veloce. Però è arrivato a un totale di circa 60 occasioni, 60 tiri in porta in condizioni favorevoli, di Ibrahimovic con 9 gol, quindi insomma una percentuale di trasformazione non altissima, nel senso che se si parla del totem, se si parla del punto di riferimento avanzato, se si parla del leader indiscutibile del Milan, non ci sono dubbi. Se si parla del finalizzatore, o utilizzatore finale, se preferite, insomma, Ibrahimovic proprio la perfezione non la rappresenta, ecco, da questo punto di vista, e direi che non l'ha mai rappresentata. Roberto è in linea da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Giusto per agganciarmi al discorso che faceva prima l'ascoltatore, anche mi sembra un pochettino un orientamento, una tendenza di molte trasmissioni di Radio 24 di magari parlare del sud soltanto in chiave negativa. Vabbè, a parte questa piccola polemica, volevo soltanto sapere un suo parere su Brocchi, giocatore della Lazio. Io sono tifoso della Lazio e ho notato come ieri l'assenza di questo giocatore, che se ne parla sempre poco, ha determinato una partita un po' difficile della Lazio rispetto a quelle ultime, insomma, prestazioni. E poi un suo parere sulla possibilità della Lazio di entrare in Champions League. La ringrazio, dottor Garantini. Grazie a lei. La Lazio può aspirare a vincere il campionato, secondo me, e dall'altra parte può non farcela a entrare tra le prime quattro. Credo che la forbice sia abbastanza ampia ancora, no? Nel senso che intanto c'è un gruppetto di testa. Chi è dietro, secondo me, alla fine ha, non alla fine, si vedrà, ma comunque ha potenziali superiori, e vale per, ovviamente, per l'Inter, ma vale anche per la Roma. Quindi, però è anche vero che in un campionato di questo equilibrio, e diciamolo pure, di questi livelli non eccelsi, ci sta qualsiasi soluzione, quindi anche che vinca la Lazio non mi sembra granché probabile, però è un'ipotesi anche questa. Brocchi è un buon giocatore. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, innanzitutto auguri per il buon Natale. Una domanda velocissima: come mai secondo lei il Milan, io sono milanista, una volta ogni tanto, tipo sabato sera, si perde, nel senso che siamo partiti bene, poi tutto un tratto sembrava che dovessimo vincere a mani basse e abbiamo perso 1-0. Cioè, sembra che a volte, non so, non abbiano più quella voglia di reagire, come se non ci riescano, oppure non sono capaci, non lo so, non riesco a spiegarmelo. Lei, che più ne sa più di me. Ma cosa vuole che sappia io? Io al massimo posso sapere che ci sono le giornate sì e le giornate no. Che fosse una gran giornata sì, fin dall'inizio, insomma, si può discutere. Era certamente, è stato certamente migliore l'inizio di quanto non sia stata la prosecuzione. Mi pare che in parte l'uscita di Pirlo una spiegazione la rappresenti, ma per il resto c'erano due o tre giocatori chiave abbastanza poco ispirati, un po' in tutti i settori del campo. Aggiunga il fatto che la Roma, dopo un paio di esitazioni iniziali, ma non errori, esitazioni, un po' alla volta ha trovato la doppia linea, no, di protettiva, cioè sia quella difensiva vera e propria che l'altra imperniata su De Rossi, con Simplicio e Brighi ben sui fianchi, e insomma la partita era una partita, secondo me, da 0-0. Poi è arrivato questo gollonzo classico, proprio perché, insomma, non è che capiti tutti i giorni di far gol su un rinvio, no? Però è vero che da quel momento in avanti, insomma, il fatto che il Milan non sia seriamente riuscito a reagire è stato abbastanza inquietante per il Milan. Andrea da Catania, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dica. Niente, io volevo dire solamente una considerazione su Del Neri e la Juventus. Intanto credo che, come dice lei poc'anzi, il cartellino rosso per Chiellini non credo che era da dare, anche perché la posizione di Moscardelli è viziata da un principale fuorigioco. Quindi è il contrario di quello che dico io. Andrea, io sostenevo, spenga la radio per cortesia, perché sennò c'è un effetto sgradevole. Dico solo che tra le due, ieri la Juventus ha avuto, l'arbitro Bergonzi ha avuto da valutare due situazioni difficili per potenziale posizione da ultimo difensore. Quella di Gian Donato non lo era, cioè, da ultimo difensore, perché stava tagliando il recupero un altro. Quella di Chiellini lo era. Se poi all'inizio dell'azione c'era un discutibile, tutto da verificare, fuorigioco, beh, è una cosa che non c'entra con l'azione, nel senso che l'azione è andata avanti, tant'è vero che è stato dato rigore. Poi? Siamo tutti quanti allenatori, io volevo dire la mia sui cambi. Io avrei fatto uscire Iaquinta e non Quagliarella, anche perché Quagliarella quest'anno, quando tocca il pallone, fa gol, Probabilmente al posto di Iaquinta, se c'era Quagliarella, potrebbe avrebbe anche fatto il 2-0. Ma vede che tante teste, tante idee. Io non avrei fatto entrare le Grottaglie, questo no di sicuro. E non so dire quale di queste due mosse abbia inciso di più e abbia finito per creare un po' di confusione, quando invece si trattava in un reparto che invece nelle intenzioni si doveva rafforzare. Siamo quasi alla fine, 30 secondi per Michele da Pisa. Buongiorno. Pronto? Dica. Senti, io volevo fare una domanda. Secondo lei qual è la probabilità che Mourinho ha che possa ritornare all'Inter? Perché oggi ho visto su un sito che Mourinho si è sfogato sia contro il presidente che contro la squadra. Ecco, tutto qua. Guardi, al momento direi proprio poche, per non dire nessuna. Se poi a fine stagione invece avverrà il miracolo, beh, insomma, predisponiamoci sin da ora a questo evento. Non mi sembra tra i più probabili, anche se è vero che tutto quello che gli veniva abbonato e fatto passare qua, dentro e fuori dalla società, a Madrid, come dire, ha un altro genere di accoglienza. Grazie a Pietro Lacorni in regia, a Franco Piantanida in redazione. Ci sentiamo domani.